Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ultima puntata prenatalizia della nostra rubrica Dal mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallina al microfono e di darci la parte tecnica. Periodo ormai vicino a scelte importanti, la scelta per l'anno prossimo, il prossimo anno scolastico. Parliamo infatti di orientamento con Gianpaolo Alimede e tanti ospiti, ben trovato. Ben trovati a tutti e soprattutto gli ospiti parleranno. Eh sì, loro che sono qui, tu ogni tanto farai qualche chiosa qui e lì su quello che andranno a dire. Fanno la terza media all'Istituto Madonna del Grappa di Treviso, terza A Gabriele, terza B Siria. Benvenuti a tutti e due, ciao. Ciao. Ciao. Cominciamo con le domande, c'è una serie di domande che ci faranno conoscere meglio la vostra storia. Allora, la scelta che dovete fare per la prima superiore, intanto l'avete già fatto oppure no, Gabriele? Io no, sono indeciso fra due scuole, il liceo artistico che è qui in centro a Treviso oppure l'istituto alberghiero Alberini. Siria? Io invece devo ancora decidere, però sono più indirizzata verso le lingue e su, diciamo, una scuola che in futuro mi porti a fare un lavoro dove si viaggia molto. Perché avete ristretto la scelta a queste due? Ne avevate altre o avete subito queste due, Gabriele? Io all'inizio avevo l'idea di andare all'Alberini, però i miei insegnanti, i miei genitori mi hanno consigliato di andare a vedere altre scuole e hanno avuto ragione, infatti, perché mi ha ispirato anche molto l'artistico e adesso sono indeciso fra queste due. E Siria? Io invece sono anche andata a vedere altre scuole e poi mi sono anche un po' indirizzata sul liceo musicale perché ho una grande passione per la musica. Ecco, un primo panorama. Allora, insomma, no? Passione... Quindi non c'è ancora una scelta definitiva e questo è ancora importante, no? Sì, ma la passione è già un criterio molto, molto interessante, per cui direi che seguire la passione nella scelta è una cosa... della scuola almeno, è una cosa sicuramente da tenere in considerazione, come anche i genitori hanno una funzione importante nel caso di Gabriele, facendolo riflettere e cercare magari di vedere qualcos'altro oltre la prima scelta, no? Quindi direi che va bene, mi sembra che siamo partiti col piede giusto. Esatto, poi bisogna arrivare anche a decidere. Le avete viste le scuole che avete nominato? Cioè siete andati agli open day, alle scuole aperte? Gabriele? Io sono andato all'open day del liceo artistico e l'11 gennaio andrò anche a quello dell'alberghiero. Così hai il panorama, esatto, completo. Siria? Mentre io sono andata a vedere il liceo Canova. Linguistico e anche classico, per farmi un po' un'idea, e per curiosità anche il liceo scientifico Da Vinci, e poi andrò a vedere anche il musicale. La vostra prima impressione, ovviamente parziale perché mancano altre scuole da vedere, Gabriele? Sono stato colpito dal liceo artistico perché offre molte possibilità e ti dà proprio la preparazione di un liceo, però con l'indirizzo artistico. Siria? A me è piaciuto moltissimo il Canova, soprattutto il linguistico, e perché c'è l'introduzione anche di lingue diverse come il russo e il cinese, che a me appassionano molto. Bene, sono proiettati, sembra... bene. Eh? Sì, sì, sì, anche perché la Cina sapete che ormai è qui. È qui. Sta invadendo bene. Il mondo. No, ma anche noi possiamo invadere. Oh, Marco Polo non ha insegnato niente. Adesso è un po' rovescio la situazione. Allora, loro non hanno fatto ancora una scelta definitiva, ma avete già insomma 8 anni e più di scuola alle spalle. C'è una domanda che è un po' complicata, che non abbiamo mai fatto in questi incontri, che è: che cosa del vostro passato scolastico vorreste buttarvi alle spalle? Cioè cancellare. Esperienze brutte, non lo so, maestri, insegnanti cattivi, compagni, non lo so, brutte esperienze. Io butterei alle spalle tutte le materie che non ti piacciono. Esatto, soprattutto. Tipo matematica? No. Matematica non è tra le prime, però anche quella è un po' così. E quella che odio di più è la storia, anche se so che me la troverò anche alle superiori. E quella cosa che mi piace della scuola superiore è che ti dà proprio una scelta e un indirizzo e potrai toccare con mano il tuo lavoro. Siria, cosa butteresti via? Io non butterei via niente perché più o meno mi piacciono un po' tutte. Sì, solo matematica in un certo periodo non riuscivo proprio a capirla. Però anche, dopo. Sì, noi intendiamo anche esperienze di amicizie, magari qualche sgarbo, qualche insegnante che si dice ce l'ha su con me, no? No. Non vi è capitato? No, non mi è mai capitato. Buon rapporto con gli insegnanti. Immaginandovi fra 10 mesi, nella nuova scuola, quella che sceglierete, anche se non l'avete appunto ancora scelta, che cosa vorreste che di voi, cioè di Gabriele e di Siria, risultasse evidente? Vorrei mettermi alla prova e riuscire a capire proprio il mio lavoro e quello che dovrò fare. Io vorrei sviluppare le mie passioni più grandi. Allora, la parola passione è tornata e per Gabriele la parola lavoro, perché è già proiettato su quello, sì, no? Sì, sì, interessante, perché è una costante che ricorre. Va bene, allora tu cosa ti vedi nel lavoro? Dai, visto che hai insistito su questa... Io mi vedrei, non saprei, non mi sono fatto un'idea, però con il cappello da cuoco e il camice mi vedrei anche abbastanza bene, tipo in un'osteria oppure in bar. Ma fai già qualcosa a casa? Sì, a casa faccio già qualcosa. Mamma contenta, non è facile trovare qualcuno che aiuta. Allora, primo giro, il tempo è passato, siamo giusti, vi ringraziamo anche per la brevità delle risposte. Gabriele e Siria, li ritroveremo nella terza parte, perché adesso durante la pausa musicale ci sarà il cambio con Aurora e Francesco, che stanno per arrivare. State con noi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Stop! dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dedicata all'orientamento, periodicamente ne abbiamo una insieme a Giampaolo Alimede e come sempre tra dicembre e l'inizio dell'anno, tempi, settimane decisive per la scelta, ospitiamo alcuni ragazzi di terza media, anche se poi nell'ultima parte ci sarà una sorpresa che ci proietta già al futuro. Bentrovati, c'è stato il cambio ad Aurora, terza A, e Francesco, terza B, sempre dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso. Ciao a tutti e due. Ciao. Ciao. Allora, stesse domande, quindi le avete già sentite mentre eravate accomodati sui nostri divanetti. Scelta fatta oppure no, e con quali alternative per l'anno prossimo, Francesco? Io sono indeciso tra intanto il liceo scientifico Da Vinci e il liceo Canova classico. E io ho già una scelta abbastanza chiara, che è il Canova con indirizzo linguistico. Cosa vuol dire abbastanza chiara? Che c'è per un'altra ora... porticina aperta? O sì, come? Per ora è quello... È l'unico a cui hai pensato? Sì. Cioè non hai pensato... Sono andata a vedere più scuole, come per esempio il Duca degli Abruzzi, però per ora, cioè, mi ha fatto più una bella impressione il Canova, senza nulla togliere il Duca degli Abruzzi comunque. Traduci bella impressione in altri concetti. Cioè, mi sembravano più preparati gli studenti che mi esponevano l'Istituto Canova, il Liceo Canova, che quelli che mi esponevano il Duca degli Abruzzi. E quindi è importante anche chi ti parla e chi ti presenta, no? L'effetto pubblicità è questo. È marketing. Francesco, tu sei stato in entrambe, in solo una? Sono stato in entrambe, mi hanno esposto soprattutto molto bene sia nel liceo Da Vinci, quindi i ragazzi del Da Vinci, sia nel liceo classico Canova, e mi hanno fatto una bella impressione entrambi. Traduci anche tu bella impressione. Una bella impressione intesa intanto come i ragazzi, che erano molto preparati e erano convinti, cioè erano sicuri di ciò che stavano dicendo e quello che stavano spiegando. Questi ragazzi di che classe erano? Questi facevano parte di terze, quarte, ma anche di quinte superiori. Quindi gente che ormai era... Sì, avanti. Di casa ormai. No, ma soprattutto era convinta della scelta che avevano compiuto e della strada che avevano percorso, insomma. Sì, sì. Che cosa, Aurora e Francesco, o chi vi ha aiutato a scegliere, a arrivare, nel caso di Aurora, già ad una scelta? Che cosa o chi? Allora, la passione per le lingue innanzitutto, e poi sicuramente i miei genitori mi hanno appoggiato e non hanno influito assolutamente, cioè ho scelto io la scuola. Invece nel mio caso, vabbè, la decisione è stata presa da me, ma anche dai miei genitori e la mia famiglia, che mi ha sostenuto e ha sostenuto le mie idee. Anche se non hai ancora scelto, no, però, detto, anche se non... però queste due restano, ecco. Beh, comunque è sempre un'opzione verso un liceo, quindi come orientamento. Tutto sommato, già il liceo artistico Scuola Alberghiera si diversificano, a parte l'arte che ci vuole anche nell'alberghiero, quindi in comune c'è l'arte, no? Ecco, però il liceo tutto sommato è abbastanza, diciamo, sempre una scuola, un percorso liceale, ecco. Bene, arriviamo alla domanda sul passato, come abbiamo fatto prima a Gabriele e Siria. Che cosa buttereste via di questi primi 8 anni 10 di scuola? Dai vari livelli. Magari la matematica. Chissà perché c'è sempre, Questa è una costante. Essendo più portata per le lingue, la matematica non è che mi va proprio a pennello, però... Però ci sarà anche quella. Io del passato non vorrei lasciare niente, comunque, perché ho avuto delle esperienze positive. Forse i momenti un po' più difficili che ho vissuto durante la scuola, ma sono riuscito a risolverli comunque. Come vi immaginate nella nuova scuola? Avete visto quelli più grandi, vi hanno parlato, vi hanno presentato, avete visto anche gli ambienti, ma voi stessi come vi immaginate lì? Perderete un po' di compagni, ovviamente, questo già lo sapete, ne troverete altri, ad esempio. Spero di avere più motivazione rispetto a quella che ho adesso e di studiare di più. Speri di studiare di più o ti aspetti di studiare di più? Mi aspetto e spero. No, invece io mi aspetto comunque una difficoltà maggiore, anche che dovrò studiare di più e impegnarmi soprattutto di più. E l'impegno dovrà essere comunque maggiore, perché una scuola superiore ti porta anche uno sviluppo nello studio. Voi avete fratelli maggiori? No, io non ho fratelli. Non hai fratelli, nessun fratello? Io più piccolo. Più piccolo. Quindi avete magari cugini, gente che è già alle superiori? Sì, no. Io ho mia cugina che frequenta un altro tipo di liceo, però anche lei per esperienza mi dice che sì, comunque una scuola superiore ti porta a uno studio più difficile, ma anche a una concentrazione maggiore su quello che si fa. Ecco, la volta scorsa avevamo i ragazzi di prima superiore e bene o male la questione dello studio era già evidente dopo poche settimane. Sì, non solo, ma loro mi sembrano ben preparati. E negli anni precedenti, in seconda e prima media, per prepararvi alla scelta, avete fatto qualche attività particolare che vi ricordate? Personalmente non mi ricordo nessuna attività. Però quest'anno stiamo cominciando a lavorare un po' nell'ambito dell'orientamento. Che vuol dire? Perché noi dobbiamo sempre pensare a chi ci ascolta. Facciamo delle lezioni, delle attività nei licei che sono presenti nella nostra scuola, come il liceo della comunicazione e il grafico pubblicitario. E non... Ma andate a visitare qualcosa, vi parlano i vostri compagni più grandi? E... Facciamo delle attività, per esempio abbiamo fatto un gioco che trattava di come gestire un'azienda, oppure abbiamo fatto, proprio oggi, degli biglietti pubblicitari usando tutte le tecniche dei grafici. E i vostri compagni di classe, perché qua voi siete, diciamo, di due sezioni, no? Come hanno reagito a queste esperienze che avete fatto a scuola? Qualcuno era interessato? Qualcuno si è chiarito le idee? Qualcuno era più confuso? No, in genere erano un po' tutti soddisfatti, parlo per la mia classe, anche contenti di aver provato queste nuove esperienze. E alcuni erano anche interessati alle scuole che dopo erano state proposte comunque. Generalmente, poi chiudiamo questa parte, i vostri compagni di classe hanno già scelto o hanno al massimo due opzioni aperte, per quello che sapete? Alcuni hanno già scelto, cioè non sono, hanno proprio come me. Al 90% aperte, scelto. Esatto. Però fondamentalmente è abbastanza difficile decidere... A dicembre, diciamo. Beh, non anche è che se manca molto, infatti le iscrizioni non è che siano tanto lontane, però cioè per me personalmente è un po' difficile decidere ora. Va bene, allora il prossimo periodo sarà dedicato a questo, ultima pausa e poi sorpresa in studio. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata prenatalizia dal mondo della scuola, parlando di orientamento con Aurora, Francesco, Gabriele e Siria, che stanno completando la terza media inferiore prima di passare al ciclo superiore. C'è già in prima superiore da qualche settimana, c'è Carolina, benvenuta Carolina. Ciao. Tu hai fatto le medie ovviamente l'anno scorso, non alle Canossiane come i nostri amici qui. Adesso cosa stai facendo? La prima superiore al liceo scientifico Da Vinci. Che impressione ti hanno fatto? Tu un anno fa eri nella loro stessa situazione, evidentemente stavi per scegliere o avevi già scelto. Li hai sentiti adesso parlare? Cosa ti è parso? Beh, sembra che abbiano le idee abbastanza chiare su quello che è la scuola superiore, su quello che ha sul loro futuro, anche su quello che vorranno fare, e basta solo pensare per scegliere giusto, basta pensare a quello che vorrai diventare alla fine. A te sembra di aver scelto giusto fino adesso? Sì. Eri convinta quando hai scelto? Sì, molto. Eri convinta, e anche adesso, in questi primi mesi, come stanno andando? Bene, bene. Bene, sotto vari punti di vista, risultati, amici, ambiente, professori? Gli amici, i compagni sono simpatici, si sta bene, anche la classe è molto bella. I professori, sì, alcuni pretendono molto, altri pretendono un po' meno, ma comunque spiegano molto bene. E i risultati arrivano, cioè basta studiare e arrivano. Basta studiare, che era quello che si diceva prima con Aurora, si studierà di più. Allora, Aurora, Francesco, Gabriele e Siria, adesso Carolina è qui, se avete domande da fare, insomma, come foste a un open day limitato ai prossimi 4 minuti, vediamo di interrogarla. Chi vuole partire, alzate la mano come in classe, così sappiamo a chi dare il microfono. Nessuno alza il dito. Aurora? Cosa ti aspettavi dalla scuola superiore e sei riuscita a soddisfare i tuoi obiettivi? Domandona. Sapevo che comunque la mia scuola non sarebbe stata semplice, che sarebbe stata dura e che già da subito avrei dovuto iniziare a studiare con costanza. Quante ore, giusto per dare una misura? Poi magari tu sei una che studia tanto, ha bisogno di poco o di tanto. Dipende dalle materie, le più difficili, quelle che capisco meno, ci posso mettere anche 2 ore, no, 1 ora e mezza. Quelle che capisco di più e che riesco a capire velocemente. Vai più veloce. Sì. Cioè, per caso c'è matematica nella prima lista? Di no. Quelle che non capisci? No, no. Vai bene in matematica, sì. meno male ce n'è una a cui piace matematica. Gabriele, Siria? Avete qualcosa da chiedere? Come ti sei trovata fino adesso? Cioè, Sì, come... Bene, come ho detto prima, i compagni sono, sono simpatici, anche i prof... e comunque sì, ci si trova bene in classe, basta ambientarsi ed è facile l'ambientazione. Siria? Eri indecisa su qualche altra scuola o avevi solo questa come scelta? Come idea avevo più o meno le idee chiare in questo periodo, avevo già deciso praticamente che se... che sarei andata al Da Vinci, però avevo visitato anche altre scuole, per esempio ero andata al Canova e anche quella là mi anche questa scuola mi ha dato una bella impressione, però le materie che si fanno allo scientifico mi interessavano di più, mi piace di più la matematica dell'italiano, diciamo. Oh beh, è un caso raro, ma insomma per fare lo scientifico bisogna che sia così. Francesco? Quali sono state le difficoltà che hai riscontrato nel passaggio dalle medie alle superiori? Beh, sicuramente lo studio, perché bisogna studiare di più e anche in classe bisogna stare più attenti se a casa si vuole fare meno lavoro e basta, direi, perché... Beh, sufficiente come prospettiva. Allora, Giampaolo che si avvicina, perché siamo ai minuti finali, una tua impressione complessiva prima di ritrovarci poi con l'anno nuovo? Beh, l'impressione direi è anche quella di Carolina, di ragazzi che hanno le idee abbastanza chiare, direi, e quindi questo è un bel vantaggio. Dopo, l'aiuto dei genitori è una cosa fondamentale, soprattutto quando non... fanno pressioni nei confronti di una o di un'altra scuola, e questo anche è fondamentale. Quello che è interessante capire di più magari sarebbe che cosa vuol dire sono stato ben impressionato, perché queste open day, queste scuole aperte sono un po' il risultato finale di un qualche cosa che è maturato in precedenza, però insomma se io vado a vedere due licei vuol dire che ho maturato verso quella, che non verso quella strada, percorsi, certo. Non solo, ma hanno capito esattamente che cosa li aspetta. Allora, con Giampaolo ci ritroveremo appunto anche nel corso del 2014 con altre voci, altre esperienze, sarà anche avanzato l'anno scolastico. Ad Aurora, Francesco, a Gabriele, Siria e a Carolina auguriamo buon anno scolastico per tutti i vostri impegni, buon Natale, buon anno. Ciao e grazie per essere stati qua. Grazie. Grazie, ciao. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.